Conclusione di ciò che precede. Da tutto questo possiamo concludere che la lettura senza la meditazione è arida, la meditazione senza la lettura è soggetta a errore, la preghiera senza la meditazione è tiepida, la meditazione senza la preghiera è infruttuosa, la preghiera fatta con devozione acquista la contemplazione, l'acquisto della contemplazione senza la preghiera è raro o miracoloso. Dio, in verità, del quale è infinita la potenza e la cui misericordia si stende sopra tutte le sue opere, talvolta suscita dalle pietre dei figli di Abramo, costringendo uomini duri e riluttanti a sottostare la sua volontà. Ed è per così dire tanto prodigo che, come si dice volgarmente, tira il bue per le corna, come quando si inserisce senza essere chiamato e quando si introduce senza essere ricercato. Il che, quando anche leggiamo essere avvenuto ad alcuno, come a Paolo e a qualcun altro, tuttavia, non per questo dobbiamo pretenderlo per noi, quasi tentando Dio. Al contrario, dobbiamo invece fare ciò che ci compete, ossia leggere, meditare sulla legge divina, pregare Dio perché venga in aiuto la nostra debolezza e perché veda la nostra imperfezione, come egli stesso ci insegna a fare dicendo: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Qua giù, infatti, il regno dei cieli soffre violenze e i violenti se ne impadroniscono. Ecco come, premesse le distinzioni di cui sopra, si possono vedere le proprietà dei predetti gradi, il modo in cui sono connessi fra di loro e gli effetti che ciascuno produce in noi. Beato l'uomo il cui spirito libero dalle altre occupazioni desidera applicarsi continuamente a questi 4 gradi di orazioni, e che, vendute tutte le cose che possiede, compra quel campo nel quale è nascosto un tesoro così desiderabile, qual è l'attendere a Dio e vedere quanto egli sia soave. Chi è inesperto nel primo grado, circospetto nel secondo, devoto nel terzo ed elevato sopra di sé nel quarto, sale di virtù in virtù per queste ascensioni che ha disposto nel suo cuore, finché compare davanti a Dio in Sion. Beato colui al quale è concesso di rimanere, sia pure per poco tempo, in questo supremo grado, e che può dire veramente: ecco che sento la grazia di Dio. Ecco che con Pietro e Giovanni contemplo la sua gloria sul monte, ecco che con Giacobbe mi diletto degli abbracci della bella Rachele. Ma badi costui, dopo questa contemplazione con la quale era stato elevato fino ai cieli, di non cadere per un caso improvviso fino negli abissi e di non abbandonarsi, dopo una visita così mirabile, alle dissolutezze del mondo e alle lusingherie della carne. Ma quando l'inferma vista della mente umana non potrà più a lungo sostenere l'illuminazione della vera luce, discenda piano piano e ordinatamente ad uno dei 3 gradi per i quali era salita, e alternativamente si fermi ora su uno, ora sull'altro grado, secondo i moti del libero arbitrio e secondo le circostanze di luogo e di tempo, e sarà tanto più vicina a Dio quanto più sarà lontana dal primo grado. Ma ahimè, quanto è fragile e miserabile la condizione umana. Ecco che con la guida della ragione e con la testimonianza delle scritture vediamo chiaramente che la perfezione della vita beata è contenuta in questi 4 gradi, e che in essi deve esercitarsi l'uomo spirituale. Ma chi è che percorre questo itinerario di vita? Chi è costui? Lo proclameremo beato. Volere di tutti, ma portare a termine di pochi. Volesse il cielo che noi fossimo tra questi pochi.